والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. E coloro che credono e compiono il bene li faremo entrare tra i devoti. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. Fra gli uomini vi è chi dice: noi crediamo in Allah, ma non appena soffrono per la causa di Allah, considerano la persecuzione degli uomini un castigo di Allah. Quando giunge poi l'ausilio del loro Signore, dicono: noi eravamo con voi. Forse che Allah non conosce meglio ciò che c'è nei petti delle creature? وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Allah conosce perfettamente i credenti e perfettamente conosce gli ipocriti. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. I miscredenti dicono a coloro che credono: seguite il nostro sentiero, porteremo noi il peso delle vostre colpe. Ma non porteranno affatto il peso delle loro colpe, in verità sono dei bugiardi. وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. Porteranno i loro carichi e altri carichi oltre i loro. Nel giorno della resurrezione saranno interrogati su quello che inventavano. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Già inviamo Noè al suo popolo. Rimase con loro 1000 anni meno 50 anni. Li colpì poi il diluvio, perché erano ingiusti. Salvammo lui e i compagni dell'arca. Ne facemmo un segno per i mondi.